наши инкубу, инкубус, инкубо. Diciamo in Sudafrica sticky icky, ok. 70, grazie caro. Ok, come la mia età. System of a Down. Un poco troppo lento per questo, eh?